indifferenza è il prezzo delle nostre vanità. È vita parassita, ostenta le sue lacune. Mi raccomando, dai tutto il meglio, ma vincere blando verso un nuovo sbadiglio. Una nuova militanza. I'm coming out of the record. Play the record, okay? Prendere da dove posso prenderlo, mixarlo, tagliarlo, farci tutto quello che voglio senza dover pagare niente a nessuno. Certo, io voglio mettere a disposizione tutto quello che io faccio per poter far sì che tutti quanti possano prenderlo, tagliarlo e farne tutto quello che vogliono e senza pagare niente. E credo che un artista debba essere contento di creare un dispositivo, metterlo lì a disposizione per dare modo ad altri artisti di lavorarci sopra e far uscire altre cose, no? Perché ogni dispositivo non è fine a se stesso, ma deve essere messo lì per potersi evolvere in altre cose, in altre cose, in altre cose, perché qualsiasi opera d'arte non è fine a se stessa, ma bensì è messa lì per potersi evolvere nel tempo grazie alle mani di altre persone. Certo, se io faccio un quadro, per esempio, e un altro, o una musica, e un altro viene, non proprio me lo copia, ma prende spunto, si ispira e fuoriesce un'altra cosa, io non posso essere altro che contentissimo di questo, perché ha funzionato, ha dato modo, anche perché è un prodotto in evoluzione da migliorare, in miglioria, da essere migliorato. Io penso che il mondo va avanti proprio con l'uomo, no? Con tutti insieme dobbiamo fare delle cose. Questo per esempio internet, proprio da cogliere con il mezzo di internet a disposizione, proprio il discorso dei diritti d'autore, quello che in couple chanque, come dicono in Francia, no? Cioè, ci taglia le gambe, nel senso che alla fine proprio con avendo a disposizione un mezzo di tecnologia, sai, di massa, come dice in italiano, di è finita! Di massa.